Sabato 20 ottobre, come vi avevamo preannunciato, c'è stata a Corezzana la manifestazione nazionale contro Arlan, organizzata dal coordinamento Fermare Green Hill e l'associazione Freccia 45. Queste realtà erano già state protagoniste del coordinamento della battaglia contro Green Hill. A Corezzana c'è un'altra delle sedi italiane della famigerata multinazionale Arlan, che oltre ad allevare animali destinati alla sperimentazione, come faceva anche Green Hill, al suo interno svolge anche l'attività di laboratorio e quindi pratica la vivisezione. La nostra Valentina Reggioli era presente alla manifestazione, dove ha intervistato Susanna Chiesa dell'associazione Freccia 45 e Aldo Benato, avvocato che si è occupato della parte legale della vicenda di Green Hill. L'imponente corteo di circa 5.000 persone è stato molestato dalla presenza di un gruppo dichiaratamente neofascista che si proclama animalista. Potrete sentire come sottofondo alle interviste alcuni cori antifascisti, la reazione dei manifestanti che comprensibilmente fanno fatica ad accettare di combinare antispecismo e neofascismo. Susanna Chiesa, presidente di Freccia 45, oggi siamo qua ad Arlan. Abbiamo cercato di unire tantissimi gruppi, quasi 50 gruppi diversi, aderenti non solo alle associazioni ma anche cittadini normali hanno voluto unirsi in questo movimento per dire no alla vivisezione, soprattutto per dire no all'allevamento Arlan che si trova a Corezzana in provincia di Monza e Brianza. Arlan ha tre sedi in Italia, quella corezzana alleva ma soprattutto importa macachi che vengono catturati in libertà e vengono destinati alla sperimentazione animale. Abbiamo tentato di parlare con il sindaco e che ci ha ricevuto insieme al vice sindaco diversi mesi fa e chiaramente ha detto a noi di Freccia 45 e al movimento antispecista che ci ha supportato che non interessa lui sostenere la nostra battaglia contro la struttura di Arlan. Anche oggi che avevamo chiesto la possibilità di ospitare gli attivisti alla fine del corteo per un'assemblea chiarificatrice ci ha negato la possibilità di farla. Siamo partiti da pochissime persone, oggi il corteo è stata la dimostrazione della presenza di più di 4.000 persone. Il nostro obiettivo, esistendo circa 600 centri di vivisezione in Italia, è partire dai più grossi e più noti come sono stati Green Hill e Arlan per poi andare continuamente avanti sino alla fine. In questo mese c'è stato il maggior numero di rinunce da parte dei centri di ricerca per l'utilizzo sugli animali, quindi vuol dire che i centri di ricerca pian piano stanno capendo, e come conseguenza di questo movimento, che c'è una possibilità di utilizzo dei metodi alternativi visto che esistono. Arlan adesso richiederà la nuova autorizzazione per il prossimo anno di importare macachi, dipende se la chiederà, se la otterrà, ci sono diversi punti che vengono discussi proprio entro la fine dell'anno per tutta l'attività di sperimentazione del 2013, quindi al Ministero della Salute ci saranno delle cose da valutare e se loro continueranno ad autorizzare Arlan ci troveremo qui tra pochissimo. Siamo venuti qui per avviare un percorso che speriamo possa essere simile a quello che abbiamo seguito per Green Hill, sia come percorso sia soprattutto come risultati. Noi adesso ci troviamo di fronte a una realtà che probabilmente presenterà problematiche maggiori rispetto a quelle di Green Hill. Green Hill avevamo già la consapevolezza, già da settembre, ottobre scorso, che c'erano delle irregolarità pesanti che erano state riscontrate dai verbali, per cui quando abbiamo avviato gli ultimi step che hanno portato anche alla fine al sequestro della struttura, alla chiusura non definitiva ma temporanea comunque dell'attività, avevamo già dei dati forti che ci accompagnavano e ci davano supporto alla nostra azione. Per Arlan è un po' più difficile, sono tre stabilimenti, sono molto più protetti, sembra che siano più osservatori o più rigorosi nella gestione dell'attività, per cui sarà sicuramente dal punto di vista giuridico, io di quello che parlo, sarà più difficile. A Green Hill la situazione attualmente è in una fase di stasi, perché? Perché inizialmente il 28 aprile si è aperto un procedimento a carico dei 13 arrestati, poi il 27 maggio c'è stata un'altra ondata di identificazioni, il 30 giugno altrettanti, erano tutti procedimenti aperti contro i manifestanti, contro gli attivisti e gli animalisti. C'è stato però un turnover quando a luglio si è arrivati al sequestro della struttura, e questo sta controbilanciando, diciamo così, la situazione, perché quello che poteva essere visto come un essere visionario da parte degli animalisti adesso trova riscontro in circostanze oggettive, per cui probabilmente la procura, che sta indagando contemporaneamente nei confronti dell'allevamento e nei confronti degli attivisti, sta valutando insieme probabilmente l'intera vicenda per capire quanto gli animalisti fossero veramente visionari o quanto invece abbiano agito con cognizione di causa.